Italia in controluce. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. Come ogni venerdì parliamo di scuola. Stavolta parliamo della sicurezza stradale che viene insegnata nelle scuole. La parola a Maria Piera Ceci. Scuola in controluce. Nome? Paolo. Sara. Soprannome? Camarosh. Saretta. Età? 18. 18. Sicurezza significa? Non fare incidenti. Stare bene, sicuri, con se stessi e gli altri. Quello che state sentendo è un vero e proprio reality sulla sicurezza stradale. Se lo ha inventato il liceo scientifico Mascheroni di Bergamo in collaborazione con la polizia locale, nella provincia con il più alto numero di morti sulla strada in Italia. I ragazzi vengono intervistati proprio come al Grande Fratello e vengono votati, e chi vincerà sarà protagonista di un'estate molto particolare. Ci racconta tutto Giovanni Vinciguerra, presidente dell'associazione Ragazzi on the Road e comandante della polizia locale di Seriate nel Bergamasco. Parteciperanno alle nostre pattuglie diurne, notturne, alle nostre attività di info point. I ragazzi potranno innanzitutto vedere quello che effettivamente fanno gli agenti di polizia locale, ma soprattutto dovranno sperimentare che dietro una divisa, a volte la divisa da orchi, a volte la divisa di coloro che sanzionano, ci sono delle persone, degli uomini e delle donne che con passione vogliono dare un contributo alla sicurezza stradale e quindi un contributo alla sicurezza anche degli stessi ragazzi. Come dire, basta un attimo di disattenzione e i ragazzi, partecipando con noi direttamente sulla strada, anche a rilevare incidenti, anche ad accertare le guide degli stati di ebbrezza di altri coetanei, sono sicuro che questo lo possono capire ed è un segnale che a loro volta dovranno poi trasmettere anche agli altri coetanei. C'è stato un incontro che le ha piaciuto particolarmente con questi ragazzi, qualche osservazione che le fanno, no? Che magari un po' ingenua, però anche bella, che le fanno questi ragazzi? Beh, c'è una ragazza che ha chiesto, ma lei ha mai beccato un verbale? E io onestamente ho detto sì, un verbale l'ho beccato e mi è servito per la vita. Qual è la regola stradale che i ragazzi ignorano e che invece lei ritiene importante? Insomma, quali sono le regole che spiega loro immediatamente? Ma potrei darne tante, ma quella che io ritengo che sia la regola fondamentale è che quando si è alla guida di un veicolo, tu stai guidando potenzialmente un carro armato che potrebbe fare anche dei danni enormi. Cioè, e questo vale sia quando circoli con un velocipede, sia quando circoli con un ciclomotore, con un veicolo. Ecco, sapere che lo strumento di libertà può trasformarsi in uno strumento bellicoso. Ecco, se si ha questa consapevolezza, credo che poi tutte le regole che devono rispettarsi saranno man mano sempre più chiare. Poi comportamenti virtuosi li stiamo veramente sperimentando. Io credo che qui la quasi totalità dei ragazzi rispettano la disciplina del casco, la conduzione ad uso ciclomotori se possono farlo. Insomma, credo che i nostri ragazzi davvero siano sempre più attenti. Nome? Massimo. Alexia. Soprannome? Max. Ale. Età? 19. 19 anni. Sicurezza significa? Essere cauti alla strada e non ostacolare anche gli altri automobilisti. Significa poter circolare senza problemi, con tranquillità. Arturo ha 19 anni e frequenta il quarto liceo scientifico Amaldi di Alzano Lombardo, sempre nel Bergamasco. Questa esperienza di andare in giro con le pattuglie l'ha già fatta. A me è capitato di fermare un mio coetaneo e di portargli via la moto perché aveva un tasso alcolemico superiore alla norma e purtroppo è anche, visto che questa moto la utilizzava anche per lavorare perché faceva il pony pizza, praticamente lui era disperato. Abbiamo fatto sì sanzioni, abbiamo fatto posti di controllo, abbiamo fatto ad esempio i sabati sera, abbiamo fatto i servizi del sabato sera, quindi posti di controllo che andavano dalle 8 di sera fino all'una, all'una e mezza. Sabato sera, nota dolente, purtroppo esatto. Il tributo di sangue il sabato sera aumenta. Ecco, com'è esatto, andata questa, il sabato sera? Come sono le strade di Alzano Lombardo il sabato sera? Ed è stata un'esperienza toccante, diciamo, perché praticamente verso mezzanotte di un sabato sera una macchina piena di boliviani, anche se non so se si può dire, sfrecciava e abbiamo rischiato grosso perché non hanno rispettato l'alt. A seguito di questo abbiamo dovuto fare un inseguimento dove sono stato incaricato di stare sulla macchina, assistere a numerosi inseguimenti, tra cui questo. Sabato sera in giro per le strade avrai visto ragazzi magari appunto di ritorno dalle discoteche, sì, non magari sanissimi, insomma, che magari avevano bevuto un po' o dell'altro. Ecco, da questo punto di vista com'è stata la tua esperienza? Fermare dei coetanei non è mai bello perché dici allora può toccare anche a me, e comunque sapere cosa mi può capitare quando sono in giro con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 0,5, però anche se nei neopatentati è 0, e sono gravi le conseguenze perché c'è il ritiro del mezzo, le sanzioni sono salate e quindi... Però magari a qualche tuo amico è anche salvato la vita in questo modo, eh? Esatto, infatti me l'hanno ripetuto, perché comunque fermare quei tani, farli riflettere, perché poi quando gli agenti li fermano non si limitano soltanto a sanzionare ma anche a far riflettere, perché gli spiegano che cosa vuol dire fare una sanzione, perché gliela fanno, e secondo me questo è stato fondamentale ed è la cosa che mi spinge anche a rifare questa esperienza da un altro punto di vista. Tu ci vai in discoteca? Io sì. È cambiato un po' il tuo modo di affrontare la discoteca e soprattutto il dopo discoteca? Sì, perché ad esempio io sono neopatentato e spesso mi capita di portare indietro i miei coetanei, amici, e quindi c'è sempre un occhio di riguardo, perché se sei da solo non hai la... cioè questo non giustifica che devi andare in giro ubriaco, però nel senso sei in giro con amici, hai delle vite a tuo carico quando le porti in giro, quindi c'è maggiore responsabilità, diciamo. Sì, ma ha cambiato, perché comunque so cosa mi potrebbe capitare e quindi in virtù di questo non faccio certe cose che magari prima facevo perché alzavo il gomito, diciamo. Prima di salire in auto controlla sempre la pressione e la profondità del battistrada, accertati che non ci siano danni visibili o usure irregolari e non sottovalutare le condizioni meteorologiche. E ricordati che sicurezza e controllo viaggiano sempre insieme. Questo invece è un video che è girato per le scuole italiane sull'importanza della sicurezza degli pneumatici grazie ad un'intesa fra Ministero della Pubblica Istruzione e Pirelli. Sì, perché sono davvero molte le scuole che si impegnano sul tema dell'educazione stradale, anche se molto ancora resta da fare, ci ha detto Vanessa Pallucchi di Legambiente Scuola, soprattutto per rendere sicure le strade intorno alle scuole. Molte esperienze ci sono di comuni, noi attraverso 100 strade per giocare, la nostra campagna appunto riservata ai bambini e la libertà del gioco in città, abbiamo quest'anno dedicato proprio la campagna alla costituzione alla richiesta da parte delle scuole di costituzione di aree di rispetto di 30 km orari intorno alle scuole, anche perché dall'inizio dell'anno sono circa una ventina di casi di bambini che rimangono vittime o ferite, addirittura insomma con ferite anche gravi proprio nelle adiacenze della scuola, quindi i parcheggi intorno alla scuola paradossalmente sono dei luoghi pericolosi per i piccolini. Ci sono bellissime esperienze in tante città di pedibus, di situazioni anche di carpooling e car sharing per assicurare, diciamo, uno snellimento del traffico veicolare, molto spesso però sono legate a dei progetti e non riescono a diventare parti strutturali della politica della mobilità urbana e cittadina delle nostre città. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che Italia in Controluce torna lunedì mattina alle 6:30.